Perché mi schiante? Non ho più voglia di coltivare le piante, ma non riesco lo stesso a capire chi osa decapitare la rosa. Come bocche spalancate o labbri penduli, due esonerate dal corpo van per via disseminate. Abbandonano tracce di rosso e più oltre sono i pruni. Così nel tosco della nascita m'invesco, quando al fine rompesti le acque, testa vidi in cascate di stupore, imperlato di muco e sangue, tondo di testa luna due occhi. Allor conobbi la vera identità dell'ospite, cascata nell'orrido spalancato, da mani spartane di belle mascherine, verdi a passeggio sul Lungarno. E sorridendo anch'io segretamente, ti legai una pietra al collo,